Luca, mi senti, Luca? Prova, 1, 2, 3, prova. Prova microfono, buongiorno. Mi senti, Lu? 1, 2, 3, prova. Sì, adesso non mi dire che non mi senti. Testa di ginocchio. Mi senti, Luca? Mi senti? Luca, mi senti? E tu, mi senti? Eia. Ma rischio di bruciarlo. Stai attento perché c'è un abisso, Alla fondo scala arrivi, dai. Sono in terrazzo, Lu. E io come arrivo, bene? Insomma, un po' frusciato arrivi, ma già stai arrivando comunque. Anda, becca, se. Ma io non te l'avevo data una da metterti lì, in quella casa. Come? Non ho capito, cosa hai detto? Ha detto io non te l'avevo data una da metterti in quella casa di antenna. Lo so, ma devo piazzarla. Mi senti adesso? A fondo scala. Ho detto mi senti adesso. Ehi, a fondo scala. Mi senti? Ma arrivi male. L'antenna, Dove ti viene bene? Mettilo anche vicino al portone.